Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Mercati finanziari, oggi nella nostra trasmissione un tema ricorrente che cerchiamo di proporvi periodicamente anche alla luce di quanto ci propone la cronaca finanziaria. E cosa ci propone in questo periodo, soprattutto le trimestrali? Il mercato azionario si sta confrontando con i risultati di bilancio del 2010 delle società quotate e le sorprese non mancano, le notizie appaiono confortanti. Pensate che oltre il 70% delle società americane che hanno pubblicato i dati dell'ultimo trimestre ha sorpreso positivamente il mercato con numeri migliori delle attese, al punto da spingere i listini di Wall Street ai massimi da giugno 2008. In sostanza il mercato americano si è riportato ai livelli precedenti il terribile crack della Lehman Brothers, anche se quell'evento nella mente di molti risparmiatori è stato tutt'altro che cancellato, ma in ogni caso insomma il mercato è riuscito a quanto pare a farlo. Oltre ai risultati trimestrali, al mercato stanno facendo bene anche altre notizie, come per esempio il ritorno ad operazioni di aggregazione societarie ed acquisizioni. E allora la domanda a questo punto è: la crisi è un ricordo? A che punto è la situazione, che è, come ricorderete bene, esplosa nell'estate del 2007 per poi appunto avere un'evoluzione in certi frangenti anche drammatica? La scorso anno ci siamo occupati a lungo della situazione del debito sovrano europeo, non è che questa parte della crisi sia stata, come dire, accantonata, ma anche questo punto della situazione, come è possibile farlo in sostanza? Cosa ci riserva il 2011, che si è aperto anche con la crisi egiziana e il ritorno del petrolio a $100? È alla luce di tutto questo giustificato l'ottimismo della borsa e qual è l'ideale portafoglio di investimento tenendo conto appunto degli scenari economici che stanno maturando? Abbiamo davvero centinaia di argomenti di cui discutere questa mattina e tutto questo sarà l'oggetto della nostra chiacchierata con Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia. Dottor Viganò, buongiorno e grazie di essere ritornata a Salva Danaio. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Allora, abbiamo richiamato Andrea Viganò, a parte il fatto che ci fa piacere ovviamente averlo, non tanto per l'importanza della società che rappresenta in Italia, poi vi darò qualche numero per chi non la conoscesse per rendersi conto di che cosa stiamo parlando quando parliamo di BlackRock, che è probabilmente la più grande società di gestione al risparmio del risparmio al mondo, ma perché periodicamente BlackRock organizza in Italia degli appuntamenti con i più importanti manager dell'azienda e settimana scorsa è stato in Italia Robert Capito, che è presidente director di BlackRock, chairman, quindi presidente di una serie di comitati operativi, una delle figure più alte dell'azienda. Noi l'abbiamo intervistato la settimana scorsa e alla luce delle riflessioni fatte con Mr. Capito stamattina le metteremo a confronto anche con Andrea Viganò e quindi vi daremo un po' anche la loro opinione, quindi vedremo un po' qual è la loro idea su come stanno andando i mercati, su come sta andando l'economia, e sono delle osservazioni assolutamente autorevoli che ci piace appunto mettervi a disposizione. Naturalmente potrete anche come sempre intervenire a Salva Danaio chiamandoci all'800240024, ci potete scrivere alle 349-238-6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Visto che di mercati parleremo per tutta la trasmissione, allora direi di cominciare anche con il monitorare la seduta odierna sui mercati finanziari, che ieri è stata buona soprattutto a Wall Street, che come vi dicevo in apertura ha riaggiornato i suoi livelli da giugno 2008, per cui sembra che il mercato azionario abbia ormai cancellato la crisi, o almeno la fase più acuta della crisi, quella che si è determinata quando è scoppiato il caso Lehman Brothers. Listini americani bene, dunque stamattina l'Europa un po' più incerta, ma diciamo che abbiamo un po' una seduta di consolidamento dei rialzi di ieri. Abbiamo Parigi in leggero calo, meno 0,03%, Francoforte più 0,11%. Peraltro dalla Germania oggi si attendeva il dato sulla produzione industriale, che è il dato relativo al mese di dicembre. C'è stato un calo di 1,5 punti, oltre le attese non sembra un dato particolarmente buono, ma secondo l'Istituto di Statistica di Francoforte questa discesa per la seconda volta in 3 mesi è stata determinata da un inverno insolitamente duro che sta martoriando soprattutto il settore delle costruzioni in Germania. Però insomma la locomotiva tedesca si è notevolmente rimessa in moto e magari anche questo sarà oggetto stamane della nostra chiacchierata con Andrea Viganò. Milano è la peggior piazza d'Europa, è arrivata a perdere un punto, adesso perde lo 0,4%, ma qua, come sapete bene, quando scendono tutti in coro i titoli bancari è chiaro che l'indice va giù parecchio, perché è un indice, il FTSE MIB appunto, largamente composto da titoli del settore appunto finanziario, per cui quando questi scendono tutto il listino ne risente pesantemente. Scendono soprattutto i big, Unicredit -2,36%. Intesa -2,18%, Banco Popolare -1,73%, Tenaris in ribasso di un punto, Fondiaria -0,8%, Popolare di Milano -0,8%, mentre il segno più c'è e anzi è accelerato negli ultimi minuti su Fiat +2,29% sull'auto in particolar modo, Pirelli +1,91%, Lottomatica ieri ha diffuso i dati del preconsuntivo 2011, pertanto abbiamo un rialzo del titolo dell'1,62%, Prysmian +1,35%, Impregilo +0,8%, Fiat Industrial +0,8%, Mediolanum +0,7%. Quindi le banche scendono, ma il risparmio gestito sale, quindi una situazione anche un po' conflittuale per il ramo finanziario. A Piazza Affari, il petrolio è sui $99 il Brent, almeno stamattina in Asia, il WTI, il greggio di riferimento americano, è a $87, e poi stamattina, sorpresa, anche se era una decisione attesa da qualche giorno, è arrivata la decisione della Banca Centrale Cinese di alzare il tasso sui depositi ad un anno e il tasso sui prestiti ad un anno. Quindi la manovra restrittiva sui tassi è arrivata, non c'è stata però una particolare ripercussione sui mercati, perché appunto, come vi dicevo, questa decisione era assolutamente attesa. Dottor Viganò, io farò la mia chiacchierata con lei esattamente come ho fatto nelle altre circostanze quando altri manager di BlackRock sono venuti in Italia, quindi faremo sentire agli ascoltatori degli stralci dell'intervista che Robert Capito ci ha rilasciato la settimana scorsa, e poi le stesse riflessioni appunto le girerò a lei. Però vorrei subito partire con lei perché mi interessa capire qual è la sua sensazione rispetto alla più importante indicazione che il mercato ci sta dando in questo momento. Wall Street cancella la crisi, si è riportata ai livelli dal giugno 2008, la stanno sorprendendo i risultati societari che le società quotate appunto stanno diffondendo in questo periodo, e alla luce di questo state in qualche maniera anche modificando le vostre strategie di investimento sull'equity, sul mercato azionario? Qual è la sensazione che ha? Senz'altro questi dati non ci sorprendono, e devo dire che hanno in qualche modo guidato anche il posizionamento dei nostri portafogli già durante lo scorso anno e continuano a farlo quest'anno. Grazie a Dio abbiamo un po' questa dicotomia fra la situazione macroeconomica, che è ancora delicata, e di un'uscita, di un allontanamento del baratro che si prospettava nel 2008 e nel 2009, però cauta, ed è fonte di cauto ottimismo. Quello che però in realtà è successo, e già da tempo, è che il management delle migliori aziende nel mondo ha da tempo reagito a questo nuovo background macroeconomico, riposizionando le proprie aziende, riconcentrandosi con i cosiddetti core business, lasciando le attività meno fruttuose e anche talvolta attraverso delle operazioni di tagli importanti anche sull'impiego, rimesso in condizione i propri profitti e perdite di dare grandi soddisfazioni. Ricordiamoci sempre questo, che anche in una situazione macroeconomica delicata, quello che guida l'andamento dei listini sono in realtà le performance aziendali, la crescita dei profitti e quella dei dividendi. Mai come oggi i bilanci corporate, soprattutto degli Stati Uniti, sono stati così in forma, ricchissimi di cash che danno l'opzione al management di queste aziende sia di entrare in operazione di fusione e acquisizione che di fare buyback di shares aziendali, piuttosto che accrescere il tasso dei dividendi. Buyback significa che le aziende si ricomprano appunto le proprie azioni sul mercato, e questo è un segnale che viene interpretato appunto come un segno di fiducia. Peraltro lei diceva appunto le società mai come in questo momento hanno presentato degli utili, insomma dei profitti interessanti, ma sottolineava anche come effettivamente le aziende siano riuscite a raggiungere questi risultati grazie anche alle enormi ristrutturazioni che negli ultimi anni sono state necessarie, e questo ovviamente si è ripercosso anche sul tasso complessivo dell'occupazione, che come sapete è il grande problema che ancora grava sull'economia internazionale e sugli Stati Uniti in particolar modo. Allora, proprio tutti questi temi sono stati l'oggetto della prima domanda che abbiamo fatto a Robert Capito, a cui abbiamo chiesto qual è appunto la percezione sullo stato di salute del mercato azionario in questo momento, e se ritiene che effettivamente la ripresa economica sia quella che in questo momento i guru dell'economia definiscono una jobless recovery, cioè una ripresa dell'economia a scapito dei posti di lavoro. Sentiamolo. Well, we're very bullish on the equity markets. Siamo molto ottimisti per quanto riguarda il mercato azionario. E la ragione è che le aziende hanno significative quantità di capitale e hanno tratto beneficio dai bassi tassi di interesse. Quindi stanno riacquistando azioni proprie e aumentando i loro dividendi. Allo stesso tempo, i bassi tassi dei bond e il possibile declino del mercato obbligazionario, insieme al probabile rialzo dei tassi, ci portano a ritenere che i mercati azionari potranno offrire maggior valore. Questi ultimi quotano a un valore basso. Ecco perché siamo più ottimisti sull'azionario anziché sull'obbligazionario. Crediamo che l'economia si stia lentamente riprendendo, anche se impiegherà più tempo di quanto ritenuto da molti. Credo che il problema più grande che sta affrontando l'economia statunitense, ma anche quella di molte altre aree del mondo, sia la disoccupazione. E finché l'economia non inizierà a riprendersi e la gente non tornerà a lavorare, la crescita e la ripresa saranno molto lente. Andrea Viganò, quanto sarà lenta tutta questa ripresa? Sì, lo so, Filippo mi sgrida perché sono andata addosso alle ultime parole di Mister Capito, ma tanto poi abbiamo modo di riascoltarlo di nuovo. Andrea Viganò. Sì, effettivamente, come dicevo, sul tema macroeconomico il nostro è una posizione di cauto ottimismo. Senz'altro ci stiamo allontanando dal momento più alto della crisi con dei segnali positivi nella stessa direzione, ma ci sono ancora aree importanti da seguire che toccheranno l'elemento delle politiche economiche che verranno poste in essere dai vari governi per mettere a posto i bilanci pubblici, che toccheranno la maggiore propensione al risparmio da parte soprattutto dei privati che puntano a rafforzare la loro situazione patrimoniale, e anche con un punto di attenzione su tutto il settore finanziario che è stato pesantemente toccato da questa crisi a livello patrimoniale e che oggi si trova di fronte a un mondo molto nuovo anche da un punto di vista di struttura dei regolamenti che ne guiderà probabilmente la capacità reddituale. Quindi elemento macroeconomico, senz'altro ottimismo ma con grande prudenza, mentre invece ricordiamocelo però, le aziende si sono riuscite a muovere molto bene da un punto di vista della loro capacità di generare reddito e questo ha generato ottime performance e continuerà a farlo anche nell'anno a venire. Allora, le anticipo già alcune delle riflessioni e delle domande che vogliono farle i nostri ascoltatori. Alcuni ovviamente guardando in avanti chiedono giustamente quali sono i settori che ancora non hanno ripreso i livelli pre-crisi e quindi magari quei settori, così immagino quale possa essere la domanda implicita, che possano essere cavalcati adesso e visto che potrebbero avere delle maggiori prospettive di crescita. Il cambio è sempre oggetto di grande interesse nelle riflessioni dei nostri ascoltatori, soprattutto l'euro sul dollaro, e poi vedremo appunto, intanto sto cercando di orientarmi tra le domande appunto degli ascoltatori, magari partiremo da queste, poi partiremo anche dalla crisi del debito sovrano dell'eurozona, perché ci interessa capire, visto che adesso è sempre un po', è da qualche tempo un po' meno sulle prime pagine dei giornali, anche se poi ieri per esempio il presidente della Banca Centrale Europea al Parlamento Europeo è tornato a parlarne, a che punto è anche questa situazione che ci ha un po' scombussolato lo scorso anno, perché nessuno immaginava che anche i titoli di Stato potessero finire sulle montagne russe. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per rivolgere i vostri quesiti ad Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia. A tra poco. Questa mattina Salva Danaio ritorna su un tema che viene affrontato abbastanza frequentemente alla luce anche delle notizie di cronaca finanziaria che leggiamo. Parliamo di mercati finanziari, dove si va, anche perché appunto molti risparmiatori, anche di quelli che ci ascoltano, sono alla finestra per capire come quest'anno, magari stanno facendo proprio adesso il tagliando del proprio portafoglio per capire come poter meglio allocare le proprie risorse disponibili. Allora noi stamattina, alla luce di una visita in Italia di un manager molto importante della più grande società di gestione di risparmio al mondo, BlackRock, la figura in questione è quella di Robert Capito, abbiamo invitato a Salva Danaio Andrea Viganò, responsabile di BlackRock per l'Italia, per farci magari una traduzione italiana della visione americana di come sta andando il mondo dal punto di vista economico e finanziario. E il tema che avevamo promesso prima della pausa, che avremmo affrontato subito, è quello del debito sovrano dell'eurozona. Un'altra domanda, Robert Capito: il mercato obbligazionario sta andando verso la stabilizzazione o ci saranno ancora delle turbolenze? Gli abbiamo anche chiesto che cosa pensa della decisione presa da Ecofin ed Eurogruppo di rimandare le decisioni sull'entità del Fondo di Stabilità Europeo, appunto di rimandare queste decisioni a fine marzo. Sentiamo. Right now that governments are trying to get involved. Al momento i governi sono concentrati nel capire pienamente quali siano i problemi reali. E finché non sappiamo con esattezza in che cosa consistono, è molto difficile prevedere quella che potrebbe essere la giusta soluzione. Tuttavia, la percezione che si ha di questi problemi e la loro interpretazione porta a volatilità nei mercati, più che ai problemi stessi. Questo incide anche sulle valute, che devono pazientare. Bisogna comprendere quali sono i problemi veri prima di mettere capitali nel mercato. Finché non si ha la certezza di quale sia la vera questione da affrontare, è molto difficile, ed è presto, dare un giudizio su ciò che Ecofin ed Eurogruppo potranno fare. Credo che l'intenzione di creare una rete di rafforzamento e difesa intorno ad alcuni stati più deboli si rifletterà in parte sui mercati. A mio avviso, molti investitori a livello globale sono dipendenti dalle notizie e dai report più che alla realtà dei fatti, che invece dovrebbe essere determinante. La volatilità in questo momento è alimentata dall'incertezza se i paesi europei si muoveranno o meno in aiuto degli stati vicini e più bisognosi. A mio avviso, l'importante è che emergano i dati reali. Non ho nulla da ridire riguardo al fatto che Ecofin ed Eurogruppo abbiano deciso di prendere tempo fino a marzo. Hanno bisogno semplicemente di questo tempo per comprendere realmente quali siano le questioni da affrontare. Allora, è giusto che gli organismi europei si siano presi questo tempo per decidere come affrontare al meglio la situazione del debito sovrano europeo, visto che tra l'altro è una crisi del tutto inedita per portata, ma anche per qualità, per caratteristiche. Andrea Viganò, detto questo, a parte il tempo che Ecofin ed Eurogruppo si sono ancora presi, ma insomma il tempo che stringe perché marzo è alle porte, le chiedo se il mercato obbligazionario complessivamente, alla luce di questa crisi che non è ancora terminata, perché poi i problemi di bilancio i governi ce li hanno ancora, gli stati dell'Eurozona ce li hanno ancora, comunque il mercato obbligazionario sarà un po' più stabile rispetto all'anno scorso o avremo ancora delle turbolenze come quelle che abbiamo, a cui abbiamo assistito? Beh, noi ci aspettiamo che sarà comunque ancora un mercato difficile, in prima battuta per i motivi che ha spiegato proprio Rob, ancora le politiche sui grandi bilanci nazionali sono ancora poco chiare, aspettiamo messaggi più chiari. Poi una cosa che nell'intervista Rob ha anche toccato, stiamo anche noi stessi di BlackRock aiutando alcuni dei governi a dirimere alcune di queste problematiche. Proprio di recente la banca centrale irlandese ci ha chiamato in aiuto per valutare molti degli asset che sono nei bilanci delle loro banche e ormai praticamente nel bilancio pubblico, che rappresenteranno un progetto di lungo termine di risanamento. A fronte di questo, la nostra raccomandazione sull'obbligazionario è che con tutte le emissioni che ci saranno quest'anno, anche nuove, c'è il rischio anche di un innalzamento dei tassi e quindi una classe d'attivo che si presenta con degli elementi di rischio importanti. Noi rispetto al monetario e all'azionario, se siamo molto positivi sulle prospettive dell'azionario per quest'anno, siamo più cauti per l'obbligazionario e all'interno di un portafoglio raccomandiamo cautela sui titoli di debito dei paesi europei e eventualmente la possibilità di andare invece a diversificare su altre classi interne all'obbligazionario come quelle cosiddette high yield e perfino sulle emissioni dei paesi emergenti, quelle con i bilanci in forma, sono veramente bilanci ormai fortissimi, espresse in moneta locale. Viganò, abbiamo bruciato la domanda di Roberto D'Alegge, ma magari così per non averlo fatto aspettare inutilmente gliela faccio rifare anche per capire se la risposta che Viganò ha già dato la ritiene soddisfacente. Roberto, buongiorno da Lecce. Sì, buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì, risposta molto soddisfacente, era proprio la mia prima domanda. La seconda invece, che se ho la possibilità, che vorrei rivolgere è questa. Le prospettive sul mercato delle commodities in riferimento anche ai paesi emergenti, essendo lì la forte domanda. Ha fatto benissimo, perché è proprio anche il tema del momento alla luce dell'esplosione della crisi egiziana, che in questo momento sembra un po' più sotto controllo, ma non è detto che ancora qualche altro effetto lo possa propagare. Allora, Andrea Viganò, la prima domanda che Roberto D'Alecce voleva fare era proprio così, se ci poteva suggerire l'asset ideale nell'ambito obbligazionario. Questa parte l'abbiamo già esaurita perché qualche indicazione ce l'ha data. Il mercato delle commodities, l'anno si è aperto con la crisi, l'anno si è aperto peraltro in realtà, è stata l'esplosione negli ultimi 10 giorni con la crisi egiziana, il petrolio a $100 di nuovo, il Brent in particolar modo, il greggio di riferimento europeo. europeo, il rame che sta volando e tante altre materie prime. Già lo scorso anno questa è stata un'asset class che è volata letteralmente su livelli mai visti, anche l'oro ha continuato a toccare nuovi record oltre i $1,400 l'oncia. Abbiamo altre sorprese in vista per il 2011 per questo comparto? Senz'altro le commodities continuano a essere supportate da uno sbilanciamento sistematico fra domanda e offerta, e quindi in particolare le economie emergenti ne fanno grande utilizzo e la capacità di output dei produttori è quella che è. All'interno del segmento devo dire che manteniamo una posizione senz'altro positiva in termini di prospettive di performance del settore energetico, allorché su alcune delle materie prime, pur essendoci un outlook positivo, hanno comunque corso molto, per cui abbiamo una posizione direi neutrale. Chi ce l'ha in portafoglio è sano che ci siano, ma hanno già dato molto, per cui può essere anche qualche occasione per una presa di profitto. Allora, adesso direi di sentire un altro stralcio dell'intervista a Rob Capito, ed è quella nella quale gli abbiamo chiesto che cosa ne pensa, visto che parliamo di materie prime, della Cina che continua a fare incetta appunto di commodities, ma ci sono anche altri problemi che la Cina, soprattutto in relazione alle altre grandi economie, sta affrontando, tutti i temi che sono stati oggetto, come ricorderete, anche del recente meeting alla Casa Bianca fra il presidente americano Barack Obama e quello cinese Hu Jintao. E allora, che cosa pensa Capito di questo meeting, di quelle che sono state in qualche maniera le visioni che si sono messe a confronto, e anche che cosa pensa del mercato dei BRIC, i famosi paesi appunto a più alto potenziale di sviluppo, Brasile, Russia, India, Cina? Gli abbiamo chiesto proprio se è d'accordo con coloro che ritengono che ormai questi quattro paesi siano da considerare fuori moda. Sentiamo. È la prima volta nella storia che i paesi avanzati sono in deficit e quelli emergenti in surplus. I paesi emergenti non sono grandi abbastanza per fornire la crescita che servirebbe a supportare i paesi avanzati. La Cina ricoprerà un grande ruolo per la futura crescita e ripresa economica. Dunque è molto importante che Cina e Stati Uniti instaurino un buon rapporto. Credo sia giusto che ci siano incontri come quello tra i presidenti Obama e Hu Jintao, in modo tale che la gente possa vedere quali sono le questioni che entrambi i paesi devono affrontare. Ecco perché credo che il recente meeting tra i due presidenti sia stato importante e che abbia dimostrato che i due paesi sono due buoni partner commerciali. Non credo che i cosiddetti mercati BRIC siano fuori moda. Certo, negli ultimi anni ci sono state molte altre economie che si sono rafforzate e che sono emerse anche in seguito alla diffusione di Internet, alla globalizzazione del mercato finanziario e alle quali proprio per questo è più facile accedere. Ecco perché i BRIC non sono le uniche economie emergenti sulle quali ci si concentra. Ritengo che ci siano nuove opportunità di investimento in diverse aree del mondo. E gli investitori stanno guardando anche oltre ai BRIC. Andrea Viganò, quali sono oltre il BRIC le storie emergenti che vi interessano di più in questo momento? Poi peraltro c'era anche una domanda di un ascoltatore che dice sì, i mercati sono saliti ultimamente, ma i quattro del BRIC stanno scendendo notevolmente. Allora anche questo è un indicatore da tenere sotto osservazione. Sono anche da questo punto di vista un fuori moda in questo momento, oppure non saranno mai fuori moda economie così importanti di questa portata? Ovviamente da un punto di vista dell'investitore è importante riconoscere che se i mercati emergenti continuano a trascinare la crescita macroeconomica, alcuni di questi hanno visto i loro corsi di borsa e le loro borse apprezzarsi in modo importante, quindi bisogna capire se è il momento di entrarci oppure di prendere profitto. Senz'altro l'America Latina e anche molti mercati emergenti asiatici hanno già dato molto, e quindi oggi per chi dovesse entrare oggi potrebbe essere anche un pochettino in ritardo. Ci sono altre aree già degli emergenti, penso in particolare all'Europa emergente, che hanno invece delle opportunità, a nostro modo di vedere, di apprezzamento e di dare soddisfazione a chi in una costruzione ben diversificata i portafogli esponga una parte dei propri investimenti su questa area. E e poi ovviamente ci sono le nuove economie, i mercati non ancora emersi. Sono aree molto delicate, dalle prospettive di lungo termine interessanti, sulle quali la grande raccomandazione ovviamente è di tenersi ben lontano dal fai da te e affidarsi dei professionisti della gestione che via via stanno iniziando a esporre i loro analisti, i loro gestori a queste aree, selezionando le aziende meritevoli di attenzione. Qual è un paese che le piace molto, Viganò? Un paese o un'area, insomma, una dimensione geografica che le interessa, che considera particolarmente attraente in prospettiva? Ecco, sul tema 2011, da un punto di vista geografico, senz'altro il messaggio è: mi piacciono gli Stati Uniti fra gli emergenti, gli emersi, perché possono dare ottime soddisfazioni, l'Europa emergente per la parte quindi degli emergenti, sono invece senz'altro anche Turchia, altre emergenti, però con una selezione delle aziende all'interno di queste, non è valido per tutto il mercato in modo indifferenziato. Le aree un po' più delicate sono ovviamente quella europea e quella del Giappone, dove siamo invece con una posizione più cauta. Allora, ci fermiamo, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi 800 24 00 24, ancora il numero che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Adesso un'altra domanda che faremo a Rob Capito sarà quella relativa alle conseguenze più pesanti che ritiene che la crisi finanziaria abbia lasciato e che ancora non si riescono a rimuovere. Poi andremo anche ad altre indicazioni sull'andamento dei mercati. Sì, abbiamo lasciato in sospeso il cambio, lo ricordo, e altre cose ancora tra poco. Andrea Viganò, allora, il cambio è sempre oggetto di grande interesse per i nostri ascoltatori, forse perché qualcuno magari ha qualche investimento appunto su scala internazionale e magari non ha adottato una protezione da rischio di cambio, quindi chiaramente il rapporto euro-dollaro, il rapporto con tutte le altre valute lo guarda con grande attenzione. Oggi siamo stabili intorno a quota 1,36,60, anche se l'apertura era stata al di sotto di 1,36 per la moneta unica europea sul biglietto verde, che 2011 sarà, o anzi, visto che insomma previsioni di lunghissima gittata non le facciamo più, nel medio termine insomma come valuta questo rapporto di cambio? Ma nel medio termine i nostri macroeconomisti hanno una posizione abbastanza positiva su un apprezzamento del dollaro. Bisogna però, mi sento, soprattutto vista l'audience di questa bellissima trasmissione, di spendere una parola sull'utilizzo di questa informazione. Io personalmente ritengo che la scommessa pura sul cambio sia una delle scommesse più rischiose e che sia meno facile da predire, quindi utile pensare al cambio come strumento di diversificazione di un portafoglio, per cui chi costruisce un portafoglio oggi può e deve andare oltre l'euro, cercare anche asset attivi, quindi investimenti anche per una parte in dollari e, come dicevo, sulla parte obbligazionaria anche in obbligazioni di mercati emergenti che hanno oggi dei bilanci pubblici forti e delle valute forti. Ecco, la scommessa proprio per andare a guadagnare sul dollaro secondo me è sottoposta a talmente tanta erraticità che è estremamente rischiosa. Andiamo ancora ad altre riflessioni di Rob Capito, presidente director di BlackRock, uno dei manager più importanti di questa società, che è la più grande società al mondo di gestione del risparmio. Gli abbiamo chiesto quali sono le conseguenze più pesanti della crisi finanziaria che ancora non si riescono a rimuovere. This has been one of the largest crisis of our time in the financial system. Questa è stata una delle più grandi crisi finanziarie dei nostri tempi. La gente vuole fare affari con strutture finanziariamente stabili e forti. Il sistema finanziario mondiale è responsabile del benessere degli individui. Io credo che la conseguenza più grave lasciata dalla crisi sia proprio la mancanza di fiducia tra molta gente. E il risultato è stato un rallentamento dell'economia e una perdita dei posti di lavoro. Credo che servirà regolamentazione da parte dei governi e una maggiore integrità nel sistema finanziario per riguadagnare la fiducia delle persone in tutto il mondo. È stato un periodo di eccessi e sia il sistema finanziario che chi investe in quest'ultimo hanno contribuito a questi eccessi e hanno avuto un ruolo. Credo che una nuova regolamentazione sia necessaria per ottenere nuova fiducia nel sistema finanziario di tutti i paesi del mondo. Andrea Viganò, la mancanza di fiducia ha portato negli ultimi 2-3 anni molti risparmiatori ad abbandonare qualsiasi asset class e a mantenere il proprio risparmio soprattutto fermo in conti di deposito, quindi ampiamente liquido. Adesso forse è il momento in cui molte famiglie o comunque diverse famiglie stanno tentando di così monitorare un po' più concretamente il mercato proprio per verificare l'opportunità di riposizionarsi o meno, o in azioni o in obbligazioni. Per chi sta facendo in questo momento il tagliando al proprio risparmio, quali suggerimenti pratici possiamo dare? Io direi senz'altro, per chi ha obiettivi di medio e di lungo periodo, di apprezzamento, di costruzione di un patrimonio, di un capitale, rimanere in cash, in monetario, per quanto sia comprensibile che si venga vissuto come un investimento sicuro, vuol dire di fatto impoverire il proprio patrimonio. È delle tre grandi classi d'attivo, obbligazionario, azionario e monetario, quella che noi consigliamo di meno. Quello che va fatto è costruire un portafoglio, e se mancano eventualmente le competenze, con l'aiuto di un buon consulente, di qualcuno che dia consigli, che sia ben diversificato, che si esponga a tutte e tre queste grandi classi d'attivo, poco monetario, un po' più di obbligazionario, e in questo momento chi se la sente di prendere un po' più di rischi sulle borse ha delle buone opportunità di avere delle soddisfazioni, almeno per l'anno a venire, il 2011. Sì, ancora l'ultima domanda, visto che abbiamo tempo, a Rob Capito, al quale ovviamente non potevamo non chiedere, visto che i manager di BlackRock vengono così spesso in Italia, qual è la percezione sul mercato italiano? Sentiamolo. Siamo molto positivi sul mercato italiano. Riteniamo che il sistema bancario del paese sia in condizione migliore rispetto a quello di altri paesi vicini. Le aziende e grandi gruppi hanno tratto beneficio da tassi bassi. Noi di BlackRock riteniamo che il paese sia posizionato molto bene per competere nel mercato globale. Siamo molto ottimisti sul mercato azionario italiano. L'unica lieve preoccupazione riguarda gli eventuali influssi negativi da parte di altri paesi vicini, che potrebbero riflettersi sulla volatilità e sulle fluttuazioni del mercato italiano. Comunque, siamo molto positivi sull'economia italiana e sul suo mercato azionario e obbligazionario. Bond market. Andrea Viganò, questo mese, lo raccontava Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore domenica scorsa, 11 paesi emetteranno nell'Eurozona 100 miliardi circa di titoli di Stato, di cui un'ottantina con durata medio-lungo termine. Le aste italiane saranno tra tutte le più pesanti, seguite da quelle di Francia e di Germania. Secondo lei, per tutto l'anno le nostre aste continueranno ad essere ben frequentate dagli investitori internazionali? Ci saranno dei momenti in cui dovremo cominciare a preoccuparci anche noi? Ma senz'altro saranno ben frequentate. Poi nella sua intervista Rob ha detto una cosa molto importante, cioè che se l'Europa riuscirà, e soprattutto non solo a porre in essere soluzioni importanti per i bilanci pubblici, ma poi a comunicare con chiarezza la quantità di denaro disponibile nel mondo per investire anche nei debiti delle nostre aree è molto significativa, e ce n'è per coprire molto più che ampiamente anche le nostre richieste da un punto di vista di debito pubblico. Piace molto, rassicura del nostro paese, l'enorme solidità del settore privato, le nostre famiglie, i risparmi delle famiglie che sono praticamente ineguagliati in tutto il mondo. Come ha detto poi anche Rob, anche il mercato azionario deve ritrovare una sua, risvegliarsi. Le nostre aziende hanno ottimi brand, operano in settori che piacciono anche nel resto del mondo, devono trovare una nuova verve. Anche BlackRock nel suo piccolo, con le importanti masse che ha da investire, la trovate spesso presente come uno dei principali investitori anche in tutte le grandi aziende quotate italiane. E anche in diverse banche siete, tra l'altro, per esempio avete una quota anche discreta in Unicredit, ma questo è un altro argomento. Viganò, le chiedo ancora un minutino di pazienza, noi adesso dobbiamo far ascoltare ai nostri ascoltatori la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Continuiamo con la collaborazione dell'INPS a proporvi le pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Il concetto di oggi, la parola di oggi, il termine di oggi è l'importo dell'assegno sociale. Per l'anno 2011 l'importo dell'assegno sociale è di 417,30 € al mese, per 13 mensilità. Per avere diritto all'assegno sociale occorre aver compiuto il 65esimo anno di età e possedere redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge. Tali limiti sono di 5.424,90 € annui se il pensionato non è coniugato e di 10.849,80 € in presenza di un eventuale coniuge. Se non ci sono redditi tra i coniugi, l'assegno spetta in misura intera. Se i redditi personali, quelli del coniuge oppure la somma di entrambi, superano i limiti di legge, l'assegno sociale non spetta. Se sono inferiori ai limiti di legge, l'assegno spetta in misura ridotta. Andrea Viganò, la nostra trasmissione sta giungendo al termine, il tempo però solamente per un'ultima domanda alla quale dedichiamo magari non più di 20 secondi. Le chiedo, perché questo è un tema che interessa molto i nostri ascoltatori, non tanto perché magari hanno delle posizioni aperte su titoli obbligazionari, quanto perché hanno un mutuo. Secondo lei la Banca Centrale Europea quest'anno aumenta i tassi di interesse entro la fine dell'anno? Ma sai, il tema importante è quello dell'inflazione. Noi ad oggi non vediamo ancora le condizioni macroeconomiche di tensione sulle risorse disponibili che supportino un innalzamento quantomeno significativo. Per cui per quest'anno direi quello che ci aspettiamo noi non è una scelta ovviamente nostra, ma o stabile un innalzamento nella seconda parte dell'anno, ma abbastanza marginale. Marginale, 0,25% al massimo, insomma magari mezzo punto. Vedremo. Grazie ad Andrea Viganò, responsabile di BlackRock per l'Italia, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. A presto. Grazie. Prossimo vostro manager che viene in Italia chi è? Tutti i nostri manager hanno fra l'altro un affetto molto grande per il nostro paese, perché siamo fortunati e li troviamo spesso in visita. Benissimo, grazie ancora, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, perché si lamenta che non lo ringrazio mai, quindi oggi lo faccio. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti.